Capitolo 9. Dio benedisse Noè e i suoi figli, e disse loro: crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo. Essi sono dati in vostro potere con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. Tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo, come l'erba verde, ma non mangerete carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Certo, io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite. Ne chiederò conto a ogni animale. Chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Voi dunque crescete e moltiplicatevi, spandetevi sulla terra e moltiplicatevi in essa. Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figli con lui dicendo: quanto a me, ecco, stabilisco il mio patto con voi, con i vostri discendenti dopo di voi e con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiame e tutti gli animali della terra con voi, da tutti quelli che sono usciti dall'arca a tutti gli animali della terra. Io stabilisco il mio patto con voi. Nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio, e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Dio disse: ecco il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi, per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. Avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco apparirà nelle nuvole. Io mi ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere vivente di ogni specie, e le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni essere vivente. L'arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente di qualunque specie che è sulla terra. Dio disse a Noè: questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni essere vivente che è sulla terra. I figli di Noè che uscirono dall'arca erano Sem, Cam e Jafet. E Cam è il padre di Canaan. Questi sono i tre figli di Noè. Da loro fu popolata tutta la terra. Noè, che era agricoltore, cominciò a piantare la vigna e bevve del vino. Si inebriò e si denudò in mezzo alla sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e andò a dirlo fuori ai suoi fratelli. Ma Sem e Jafet presero il suo mantello, se lo misero insieme sulle spalle e, camminando all'indietro, coprirono la nudità del loro padre. Siccome avevano il viso rivolto dalla parte opposta, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza, seppe quello che gli aveva fatto il figlio minore e disse: maledetto Canaan, sia servo dei servi dei suoi fratelli. Disse ancora: benedetto sia il Signore Dio di Sem e sia Canaan suo servo. Dio estenda Jafet e abiti nelle tende di Sem e sia Canaan suo servo. Noè visse, dopo il diluvio, 350 anni. L'intera vita di Noè fu di 950 anni. Poi morì.